e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi vi racconto una storia a tinte molto forti, una storia fatta di pugni, fatta di donne, di guai. Vi racconto di un personaggio che è diventato un mito straordinario, con una vita segnata dalla fama, dalla gloria, dal talento, ma anche da grandi errori, dalla violenza, dall'omicidio, dalla morte. Oggi raccontiamo l'epopea di uno dei pugili più forti di tutti i tempi, un pugile amato dai fan, dalle donne, che non si è fatto mancare niente della vita, che è passato dalla povertà più assoluta alla ricchezza più sfrenata, è entrato nella leggenda, è diventato amico delle star di Hollywood per poi far parlare di sé nella cronaca nera per un'accusa di omicidio, è finito in galera, è morto tragicamente. Ci sono tutti gli ingredienti per una storia veramente piena di pathos, anche perché siamo in uno dei paesi simboli del pathos, l'Argentina. Stiamo parlando di Carlos Monzón, il pugile dal viso da indio, bello come una statua, forte come una roccia, passionale, sfrenato. Iniziamo a raccontare la sua storia da un ricordo di Amilcar Brusa, uno dei più famosi allenatori di box mai esistiti, che fu l'allenatore di Carlos Monzón per tutta la sua incredibile carriera. I colpi di Monzón erano tutti micidiali, sia il destro che il sinistro. Era un incredibile campione. Penso che non esisterà mai più un altro peso medio come lui, perché ha difeso il titolo per ben 14 volte, senza che nessuno riuscisse mai a portarglielo via, e si è ritirato imbattuto. Si è ritirato invitto del campione, no? E noi ti crediamo, Amilcar Brusa, perché è probabile che un campione dei medi come Carlos Monzón non ci sarà mai più. Un combattente nato che ha disputato da professionista 102 incontri, ne ha persi solo 3, senza mai far vacillare neanche una volta il suo titolo di campione del mondo. Raccontiamo la sua vita, una vita straordinaria dove gli ingredienti ci sono veramente tutti. Nasce il 7 agosto del 42 a San Javier, un piccolo villaggio sperduto nel nord dell'Argentina. È il sesto di 12 figli e la sua è una famiglia poverissima. Così Monzón si trasferiscono a Santa Fe. Durante il viaggio Carlos si ammala di tifo, i medici sono pessimisti sulle conseguenze di una malattia che si candida a lasciarlo debole e malaticcio per tutta la vita. Ma a dispetto di queste previsioni nefaste, Carlos diventa 1,84 m per 72 kg di muscoli, un fisico impressionante, una forza straordinaria e un fascino incredibile fin da ragazzo. La famiglia di Carlos è poverissima, lui deve darsi da fare come può, fa lustrascarpe, poi le amicizie di strada, l'occasione e la necessità lo portano a qualche furtarello, diventa protettore di prostitute. Insomma, la sua sembra la classica vita di tanti che non hanno grandi speranze e hanno già tracciato davanti a sé un percorso fatto di delinquenza. Ma c'è un ma. Carlos ha un fisico possente e anche una certa cattiveria che gli deriva dalle sue origini umili, da quel dovere lottare fin da piccolo, e ci sa fare con i pugni, nessuno lo batte, nessuno osa sfidarlo, quindi qualcuno gli suggerisce di tirargli i pugni, sì, ma dentro a un ring. Ed è così che lui fa un incontro decisivo che fa svoltare la sua vita. A Santa Fe c'è la palestra di Amilcar Brusa, il signore che abbiamo sentito prima, il mitico allenatore che ha un vivaio di giovani pugni. pugili. Bruce si trova davanti un atleta già completo, con un fisico d'acciaio, un pugno pesante e preciso, un ottimo incassatore. Punta tutto su di lui e fa bene, perché Carlos non è solo forte, è freddo, è determinato, è sempre padrone della situazione ed è spietato con gli avversari. Amilcar Bruce organizza subito incontri a alto livello per Carlos e racconta che non era facile trovargli dei degni avversari. Addirittura l'allenatore di uno di questi gli aveva detto così: e invece Brusito dice: Brusito, ma quanto è bravo questo tuo ragazzino. Non ho mai visto un pugile tanto forte. Se non stiamo attenti, me lo ammazza il mio. Me lo ammazza. È il più bravo che ho visto in vita mia. Carlos Monzoni inizia la sua carriera da dilettante a 16 anni, combatte 83 incontri, ne vince 73 e gli altri li pareggia. A 21 anni passa professionista, guadagnando $3,000 a incontro, più di quanto suo padre avrebbe guadagnato in 30 anni di lavoro. La sua vita cambia, inizia a vedere dei soldi, può permettersi una bella macchina, risolleva le sorti della famiglia, dei fratelli, delle sorelle, prende consapevolezza di sé come uomo e come pugile. In pochi anni, sempre solo con al suo fianco Amilcar Bruce, Carlos Monzon arriva al titolo del suo paese e poi a quello del Sud America, in fila, una vittoria dietro l'altra. Adesso che è campione dei pesi medi nel suo continente, può ambire al titolo più prestigioso di tutti, cioè può ambire a sfidare il campione del mondo, ed è una sfida che ci interessa da vicino, perché il campione del mondo dei pesi medi in quel momento è un italiano, si chiama Nino Benvenuto. Siamo nel 1970, Carlos Monzon ha 28 anni, ha fatto una carriera rapidissima perché in soli 7 anni da professionista è arrivato ai vertici della box nel suo continente, è campione dei pesi medi nel Sud America. La sfida successiva è per forza deve essere il campionato mondiale. Il nemico da battere è quello che noi conosciamo molto bene, una leggenda del pugilato italiano e mondiale, è il grandissimo Nino Benvenuti, campione olimpico nel 60, campione del mondo nei super welter dal 65 al 66, campione del mondo nei medi e 67, insomma un pugile straordinario, di grande esperienza, ha sconfitto i più forti campioni dell'epoca, e sono storici i suoi 3 incontri con Emil Griffith, lo statunitense, gli ha strappato il titolo, e l'incontro a San Siro con Mazzinghi, e insomma compie un'impresa che in precedenza era riuscita solo a Marcel Cerdan, altro grandissimo pugile al quale abbiamo dedicato una puntata un po' di tempo fa. Quindi Benvenuti è considerato un eroe, ha portato in Europa il titolo dei pesi medi come solo Cerdan aveva saputo fare. Monzon sa bene che solo sconfiggendo lui potrà entrare nella leggenda della box. La sfida viene lanciata e ascoltate cosa ha raccontato anni più avanti lo stesso Benvenuti. Io avevo molta stima di me stesso, avevo molta stima, e quindi se uno riusciva a battermi in quella maniera, così, con quella facilità, significava che era un grande campione e andava a preparare una carriera straordinaria. No, io non avevo la presunzione di essere imbattibile, sapevo che sarebbe venuto il momento, avrei anche potuto evitare quel momento, invece di incontrare Carlos potevo incontrare un pugile per un altro titolo, così cominciavano a crescere i titoli, un altro pugile meno forte. Io no, se sono il campione del mondo devo combattere con quello che è più forte dopo di me, lo sfidante ufficiale. E qui Benvenuti dimostra di essere un grande, dimostra il suo spessore anche come uomo e dimostra di essere uno sportivo vero, e quindi viene organizzato l'incontro 7 novembre del 70 a Roma, Palazzo dello Sport. nonostante la buona preparazione, Benvenuti comincia a lamentare un certo logorio fisico, mentre Monzone è in forma sbagliante, ha un fascio di muscoli, di nervi. Al peso prima dell'incontro fa una dichiarazione decisamente nelle sue corde, una dichiarazione forte e bellicosa: da questo ring scenderò o vincitore o morto. È in stile col personaggio, ma Carlos Monzoni in Europa è sconosciuto, sembra una frase buttata là, è il solito comportamento un po' da sbruffone che hanno i pugili prima dell'incontro. Potrebbe essere uno che parla tanto ma poi farà poco, invece quando sale sul ring le cose cambiano fin dalle prime riprese. La superiorità dell'argentino è evidente, Nino Benvenuti ha la forza, l'esperienza, la disperazione per contrastare il suo sfidante, ma alla 12ª ripresa le sue sorti vengono segnate da un terribile destro di Monzone. Ascoltiamo l'audio originale di quel momento. Vedete che non concede tregua Monzone. Dello sport di Roma è costretto a assistere a qualcosa di unico, perché il pugile venuto dall'Argentina, sconosciuto con il suo fisico statuario e col volto impassibile da indio, sconfigge il campione di casa, l'italiano che tutti adorano per la sua bravura, per la sua sportività, per la sua umanità. Lo inchioda all'angolo e lo atterra. È un colpo micidiale alla mascella. Benvenuti avrà modo di raccontare quei terribili momenti, ma anche di dimostrare ancora una volta il suo spirito sportivo. Carlos era, in quel momento, era imbattibile, e non c'era nessuno che potesse tenerle testa per batterlo, per vincerlo, era molto forte. Io ormai avevo già fatto la mia carriera, avevo 20 anni di attività e probabilmente non avevo più quegli stimoli necessari per incontrare un uomo emergente come Carlos Monzon. Ero soddisfatto e quindi, però, diciamo una cosa, non tengo nessun rammarico, per questo, perché è stato un modo per terminare la mia carriera contro un grande campione. Questo è stato molto importante, anche perché Carlos ha continuato la sua carriera con il mio titolo del campione del mondo. Benvenuti è battuto da uno più determinato di lui, con la forza della fame. Il titolo di campione del mondo vola in Argentina. Carlos Monzon rientra in patria da eroe e viene accolto da oltre 200.000 persone che lo festeggiano. La sua impresa è grandiosa, è nominato Fight of the Year, combattimento dell'anno, quel combattimento. E anche l'allenatore Amilcar Brusa sostiene questo: la miglior opera, il miglior incontro mai fatto da Carlos Monzon per consacrarsi campione del mondo e mantenere il titolo è stato l'incontro con Nino Benvenuti, che fu un risultato eccezionale. Oh, you think it's tragic when that moment first arrived. Oh, but it's magic. It's the best years of our lives. Il falco e il gabbiano. raccontando la leggendaria epopea di Carlos Monzón, il pugile argentino dal fisico scolpito, dal volto inespressivo che assomigliava all'attore Charles Bronson, implacabile, feroce. Monzón che nel 70 conquista il prestigioso titolo di campione del mondo dei pesi medi strappandolo a Benvenuti, il nostro amatissimo campione, e diventa un simbolo, non solo uno sportivo vittorioso, diventa uno dei simboli di riscatto di tutta l'Argentina e del Sud America, il simbolo di quelli che vivono in povertà e vedono in lui una possibilità contro un destino già segnato. Poi c'è il tentativo di Benvenuti di riprenderselo quel titolo, me lo ricordo bene, siamo nel 1971, l'8 maggio a Monte Carlo, e qui l'incontro si interrompe al terzo round. Again a push. Benvenuti is going out of his mind. E questo incontro me lo ricordo molto bene, ero davanti alla televisione quando il manager di Benvenuti lanciò la spugna e poi disse: dovevo scegliere se salvare l'uomo o l'atleta, ho salvato l'uomo. Per Benvenuti è la fine della carriera di pugile, per Monzón la consacrazione, l'inizio di una serie lunghissima di vittorie. Difenderà il suo titolo 14 volte in 7 anni, vincendo sempre, un record tuttora imbattuto. I suoi incontri sono spettacolari, come quello che combatte contro José Nápoles, pugile cubano soprannominato Mantequilla, cioè burro, perché sembrava che i colpi dell'avversario gli scivolassero addosso, ma non quelli di Carlos Monzón, che lo batte al sesto round. Monzón throwing bombs in there. Nápoles is hurt. It's all Monzón here in round 6. Can Nápoles last the round out? E allo stesso modo Monzón batte Emil Griffith, che si era tornato a far vivo chiedendo una possibilità, Tony Licata, Gratien Tonna, poi due incontri con Rodrigo Valdés, il pugile colombiano fortissimo, la prima il 26 giugno del 76. Valdés è distratto, solo una settimana prima suo fratello era stato ucciso in una rissa in Colombia, gli ha chiesto di rimandare l'incontro, non gli viene concesso, Monzón lo batte e gli viene concessa una rivincita, 30 luglio 77 a Monte Carlo, i due pugili entrambi fortissimi tornano a confrontarsi e questa volta Valdés è in partita, al secondo round mette a terra Monzón. Bene, Monzón si rialza subito, si riprende come può fare solo un grande campione. Al termine delle 15 riprese riesce a strappare la vittoria ai punti. So now we come to the 15th round of the middleweight championship from Monte Carlo. Antonio Carlos Monzón. There it is, the first official, 144-141, Monzón. The second official, 147-144, also Monzón. And 145-143, again for Monzón. Carlos Monzón, the unanimous winner. He retains the middleweight championship of the world. Lascia la box da re il 30 agosto del 77 dall'annuncio ufficiale. È una scelta che dimostra la sua forza, non solo quella fisica ma anche quella mentale, perché sceglie la soluzione migliore, lascia quando è in cima, evitando di esibirsi in incontri quando subentra il declino inevitabile. E sul ring non ne sbaglia una, e come pugile non ne sbaglia una. Fuori dal ring le cose cambiano. Quando lascia l'attività nel 77 lui ha già un figlio quasi ventenne, perché ha avuto un bambino a 16 anni dalla prima moglie Zulema, poi si è sposato nel 63 con Mercedes Beatriz García e con lei ha altri tre figli. Dopo l'abbandono del ring, non avendo più la box e duri allenamenti, fa l'attore, che aveva fatto anche anni prima in un'unica pellicola, La Mary. La faccia ce l'ha, le capacità un po' meno, i ruoli non sono proprio da Oscar, recita in diverse pellicole di scarsa qualità in Argentina e in Italia, Le porte di Roma gira il Macho, un titolo che è tutto un programma e che gli rimarrà addosso come un soprannome. Mettiti comodo, siediti. Prego. Lo senti che profumo? Da fare suscitare un morto. E a te andrebbe male. Sai quanti verrebbero a cercarti? Naturalmente è un film pieno di scazzottate e lui i pugni li dà per davvero, molte comparse vanno all'ospedale. È un personaggio che fa parlare di sé, comincia a frequentare il mondo del cinema, va a Hollywood, ha un flirt con Ursula Andress e diventa amico di Alain Delon, di Jean-Paul Belmondo. Insomma, fa una vita diversa da quella che faceva come pugile. Appende al chiodo i guantoni e comincia a collezionare flirt. Lo si vede spesso nei locali notturni dove alza il gomito, fa uso di droghe, diventa un personaggio paparazzato e spesso richiama l'attenzione delle cronache per le aggressioni alle sue compagne. Proprio su un set cinematografico conosce Susana Jiménez, la bellissima attrice argentina soprannominata la Brigitte Bardot dell'America Latina. Naturalmente lui non se la lascia scappare, i due iniziano una relazione, vanno a finire su tutti i giornali, anche perché nel frattempo, ricordiamoci, Carlo Monzon è un uomo sposato. Mercedes Garcia, seconda moglie di Monzon, madre dei tre dei suoi figli, non ne può più e così i tradimenti alla luce del giorno del marito la esasperano. Lei pensa che sta facendo una brutta figura, in effetti è così, decide di vendicarsi, gli spara, lo ferisce a una gamba, Carlo si riprende, ma questo naturalmente incrina un pochino i rapporti. Insomma, il loro matrimonio finisce anche la relazione con Susana Jiménez, che era durata 4 anni, arriva al capolinea e il motivo è la stessa attrice a raccontarlo nel 2008 in un'intervista rilasciata alla televisione argentina. Mi piaceva molto Carlos, era attraente, molto animale, come una pantera, un fisico perfetto. Certo, non era colto, era un pugile, andava un po' educato. Prendemmo una professoressa di dizione perché non pronunciava le S, ma il rapporto con lui era una sofferenza continua. Carlos era un violento, ma solo quando beveva. Normalmente non era violento, ma se beveva si trasformava come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Per questo l'ho lasciato. Non che bevesse molto, gli bastava poco e partiva subito. Peccato, perché era favoloso. Una pena perché era un tipo favoloso. Finita con Susana Jiménez, arriva un'altra donna, è Alicia Muniz, che è una modella uruguayana. Carlos si innamora, dirà che è la donna della sua vita, si sposano, hanno un figlio che per lui è il quinto. Ma anche in questa relazione l'indole violenta dell'ex pugile esplode, liti, botte, denuncia, ricoveri in ospedale, fino alla drammatica sera del 14 febbraio 88, San Valentino. Loro sono in vacanza nella città di Mar del Plata e litigano per l'ennesima volta. Lui ha bevuto un po', forse ha bevuto anche troppo, lei si ribella, la lite degenera, i due finiscono entrambi giù dal balcone del loro appartamento al secondo piano. Solo che per Carlos si tratta di qualche contusione di una spalla lussata. Alicia invece muore e l'autopsia rivela che non è stato il volo dal balcone a ucciderla, era già morta, strangolata, omicidio. Carlos Monzon viene arrestato, condannato a 11 anni di carcere e mentre si trova in prigione viene intervistato e risponde così. Nel momento ti priven di tutta questa libertà e ti incontras. Stare in prigione vuol dire essere privati della libertà. Devi chiedere il permesso per andare in bagno, per usare il telefono, per fare qualsiasi cosa. Questo ti fa stare male. All'inizio avevo voglia di ammazzarmi e non l'ho fatto per il mio bambino, per Massi. Perché quando sarà grande io voglio che sappia la verità. Che sappia cos'è successo in quella terribile notte del 14 febbraio 1988. Voglio raccontargli tutto quello che mi ricordo. Ci penso tutte le notti. Che cosa mi è successo? Che cosa è successo? Perché è facile dire la colpa ce l'ha Monzon. La colpa in una relazione è sempre al 50% di uno e al 50% dell'altro. Qualcuno dice la colpa la tiene Monzon, però che sempre in una pareja il 50% lo tiene uno e il 50% lo tiene l'altro. Monzón dichiarerà sempre di non ricordare assolutamente l'accaduto, giurerà davanti a Dio di non aver ucciso Alicia, ma i fatti purtroppo sono tutti contro di lui, perché in casa c'erano solo loro due. E Monzón rimane nel carcere di Las Flores, nella provincia di Santa Fe, per 5 anni e mezzo. Poi, per buona condotta, anche per l'intervento di amici influenti, gli viene concessa la libertà condizionale, che gli permette di uscire durante il giorno e rientrare la sera a dormire in carcere. Ed è proprio rientrando per la notte l'8 gennaio del 1995 che la sua auto, lanciata a 140 km orari, sbanda, esce di strada, si ribalta più volte. Carlos Monzón muore sul colpo, aveva 53 anni. I telegiornali di tutto il mondo mostrano le terribili immagini dell'auto accartocciata su se stessa. El estado en el cual ustedes aprecian quedó el vehículo. Lo stato nel quale potete vedere il veicolo mostra la tremenda violenza dell'impatto e anche la velocità che aveva l'auto durante la corsa infernale, che è costata la vita a Monzón e a un passeggero. Che costara la vita a Monzón e a un accompagnante. E l'Argentina piangerà a lungo il suo campione, lo celebrerà per sempre. La visita guidata di Santa Fe prevede tuttora il passaggio davanti alla statua di Carlos Monzón. Sul luogo dell'incidente mortale, Santa Rosa de Calcines, 480 km a nord di Buenos Aires, i fan del re del pugilato argentino hanno appeso uno striscione sul quale è scritto: anche se è morta una stella, la sua luce brillerà per sempre. Carlos Monzón, che di colpi d'ala ne ha assestati tanti nella sua carriera, ha avuto una grande vita finché è stato un pugile e non è riuscito a ripetersi dal punto di vista personale e ha avuto un terribile declino, come ahimè a molti pugili è accaduto. Se volete mandarci dei commenti e segnalarci altre vite, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a cercarci sui nostri social e sui miei social, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Guardo nello specchio e vedo un pugile che sta battendosi col tempo, con la mano ferma e il cuore fragile, non adeguati alla sua età. Rimani all'angolo ed asciuga il mio sudore dentro al minuto di riposo, prima di sputare ancora l'anima nel cono luminoso.